The music, the music is free. La radio che crea il movimento. Partiamo dal mondo per tornare a Roma vincitori. Ma che de? Dicono, non è la radio, è un'altra radio. Un'altra radio Roma. Non c'è un'altra. Radio Roma. Nostra Radio Roma, dove la musica è la padrona. Rock Super Maurone. Nostra Radio Roma. We'll be right back. la radio Roma. Yeah. Yeah. L'altra radio Roma. Super Maurone. Thank you. al mixer Super Maurone. Roma. L'altra radio Roma, la radio che ti fa uscire di sonno. Al mixer Super Mauro.